Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E ancora benvenuti alla nostra trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. La volta scorsa abbiamo parlato della stretta connessione tra il giornalino del Pioniere e la divulgazione tecnico-scientifica. Torniamo sull'argomento perché in particolare con la spedizione intorno alla Terra di Yuri Gagarin e della capsula russa, l'entusiasmo negli ambienti di sinistra per questa primazia della patria, del proletariato, sul capitalismo, anche sul progresso, diventò estremamente tangibile e si riflette assolutamente anche sul Pioniere e sulle stesse favole di Rodari. Oggi torniamo sull'argomento prendendo in analisi questo libro I comunisti sulla luna, l'ultimo mito della rivoluzione russa a quattro mani, a firma di Stefano e Marco Pivato. Stefano Pivato è stato raggiunto da Morena Moretti per saperne di più di questo entusiasmo rispetto alla capsula Sputnik. Chi è Stefano Pivato? Insegna storia contemporanea all'Università di Urbino, per il Mulino Editrice ha anche tra l'altro pubblicato Il secolo del rumore del 2011, I comunisti mangiano i bambini del 2013, Favole politica del 2015. Ma ascoltiamo appunto l'intervista di Morena Moretti. 5 4 3 2 1 Lift off. Stefano Pivato, nel suo libro I comunisti sulla Luna, lei affronta il tema delle imprese spaziali dell'Unione Sovietica, diciamo fine anni 50, inizio anni 60. E, queste avventure, imprese, diciamo, che impatto ebbero sul mondo occidentale in parte, ma soprattutto sulla sinistra, sui comunisti in Italia? Beh, sul mondo occidentale intanto sgomento, sconcerto. E soprattutto paura. Se andiamo a leggere i titoli della stampa della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale o della stampa comunque filo occidentale, c'è il timore appunto che, teniamo presente che siamo nel pieno della guerra fredda, per andare all'osso c'è il timore che un missile che parte appunto dal deserto siberiano possa arrivare fino a New York. Questo era il clima della guerra fredda. Gli americani sono presi di sorpresa, gli americani non si aspettavano assolutamente di arrivare dietro l'Unione Sovietica in questa gara spaziale. D'altronde teniamo presente che la formula con la quale viene mandato Sputnik prima e poi lo Sputnik con la cagnetta dopo è una formula che si deve allo stato avanzatissimo di studi della matematica in Unione Sovietica. Ha radici profonde poi, almeno lei. Fine 800, cioè a dire nella Russia zarista. Kolchovsky è questo matematico appunto che a fine 800 individua questa formula che poi sarà utilizzata sia dallo Sputnik che dal progetto Apollo, quindi erano molto ma molto più avanti i sovietici degli Stati Uniti nella corsa spaziale, solo che cosa succede con la fine della seconda guerra mondiale? Che il padre della FU2, cioè von Braun, che aveva messo in atto appunto con queste bombe che andavano dalla Germania, arrivavano fino a Londra, i principi appunto della missilistica, che von Braun svilupperà dove? Von Braun svilupperà quando si consegnerà agli americani, finita la Seconda Guerra Mondiale. I russi, d'altro canto, arriveranno primi ai disegni che c'erano in questa base dove partivano gli V2. Comunque von Braun nel deserto appunto degli Stati Uniti e i russi, grazie appunto agli studi avanzati, cominciano questa disfida nel 57 e il primo round, diciamo così, che è quello dello Sputnik prima e poi della cagnetta laica, in occasione, ecco, non dimentichiamolo mai questo, in occasione del 40° anniversario della rivoluzione di ottobre. Siamo ai primi di novembre del 1957, la rivoluzione d'ottobre, come sappiamo, è del 1917. Si doveva dimostrare che cosa? La supremazia del sistema comunista, la supremazia dell'Unione Sovietica sul sistema occidentale. Questo era, non è solo una scoperta scientifica, ma è l'affermazione della superiorità del sistema comunista su quello capitalista. E quindi, diciamo, la sinistra, i comunisti in Italia in particolare, come accolsero quindi questa grande novità, questa grande esperienza? Basterebbe appunto andare a leggere i titoli dell'Unità per capire quanto si gonfiarono il petto e ha ragione anche i comunisti italiani. Torno a ripetere, lo dico sempre fino alla noia, siamo appunto nel pieno della guerra fredda, i comunisti sono stati sconfitti qualche anno prima, gli anni 50 sono gli anni del centrismo, sono gli anni in cui i sindacati sono allo sbando, e allo sbando il movimento operaio e ringalluzzisce un po' tutti, ecco, questo è il primato comunista dell'Unione Sovietica che si riverbera per forza anche all'interno del Partito Comunista Italiano, all'interno del Partito Comunista di Togliatti, di Longo, di Paietta. C'è una cosa molto curiosa, oltre ai titoli, che probabilmente in quegli anni, in quei mesi e nei mesi successivi, non solo i comunisti, ma i cani dei comunisti si chiamano tutte laiche, sia che siano maschi, sia che siano femmine, ecco, perché questa insomma, la laica diventa proprio l'eroina che fa avanzare il socialismo, se posso esprimermi così. Quindi come viene restituito dalla stampa, diciamo, dalla stampa comunista e anche, o anche con altre forme, media, vari, eccetera, questo primato dell'Unione Sovietica, che è anche un primato poi della scienza e del positivismo, come nel periodo, certo. Insomma. È un primato della scienza, ma diciamo che i discorsi di carattere scientifico sono sovrastati da quelli di carattere politico. Non è facile per dei lettori profani che cosa sta succedendo sul piano scientifico. Andremo sulla Luna, ecco, questo è il ragionamento un po' che fanno tutti, andremo sulla Luna, dicono i comunisti, andranno sulla Luna per primi, dicono quelli che appartengono appunto all'ideologia liberale o alla democrazia cristiana. Guardate, in quegli anni quel che succede dal punto di vista scientifico lo spiega un curioso personaggio. I corrispondenti della stampa comunista dell'Unità, sostanzialmente, che sono a Mosca, sono sorpresi anche loro. Che cosa stia succedendo nello spazio glielo spiega un curioso personaggio, che anche se questo non sta scritto nei libri di storia, cioè glielo spiega il figlio di Teresa Noce e di Longo, che poi diventerà il segretario del Partito Comunista Italiano. Perché? Ma perché il figlio di Longo era un astrofisico, si stava laureando anzi in astrofisica all'Università di Mosca, e tutti i corrispondenti italiani si rivolgono a lui per capire che cosa sta succedendo appunto dal punto di vista scientifico. Quindi sono le cronache dell'Unità sono sicuramente quelle che dal punto di vista scientifico volgarizzano, se così posso esprimere, meglio quello che sta succedendo nello spazio, grazie alla presenza appunto di questo curioso personaggio di Longo, che spiega attraverso il corrispondente dell'Unità a Mosca che cosa succede dal punto di vista scientifico. Però è chiaro, quello che sovrasta tutto è il discorso di carattere politico, è il primato comunista che sovrasta quello del mondo capitalistico. Ecco, lei nel suo libro cita anche il giornalino illustrato Il Pioniere, dove ci sono dei personaggi, giornalino naturalmente dedicato ai bambini e ai ragazzi, che in quegli anni usciva in forma autonoma, autonoma rispetto all'Unità o a Noi Donne, dove poi fu pubblicato successivamente, e che dedicò, diciamo, ampio spazio al tema con questi personaggi, prima Chiodino e poi Atomino. Ecco, che tipo di messaggio mandavano questi personaggi ai ragazzi, ai bambini? Beh, direi che bisogna considerare questo, che Chiodino altro non è che una reincarnazione di Pinocchio, una reincarnazione del burattino di Collodi, solo che a differenza del burattino di Collodi, anziché ricavato dal legno, è fatto in metallo, è fatto con gli scarti di ferro da stiro, è fatto di bulloni, è che cosa? È un burattino tecnologico, no? Poi appunto pensiamo a Atomino che richiama la fisica, che richiama appunto la scienza. Ecco, Chiodino aggiorna Pinocchio decenni dopo l'invenzione appunto da parte di Collodi, nel senso che è un Pinocchio comunista, se così posso esprimermi, perché Chiodino sta dalla parte dei deboli, Chiodino sta dalla parte ad esempio degli indiani d'America, Chiodino sta dalla parte dei neri d'America, sta dalla parte del movimento operaio, sta dalla parte dei deboli, è un aggiornamento appunto Chiodino del Pinocchio di fine 800 ed è soprattutto un burattino tecnologico. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Piccolo gorbio nero! Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. Ma è un'ingiustizia però. Siamo le solite, cari nero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là. Molti l'avranno riconosciuto, lui è Calimero, questo eroe degli anni 60 di Carosello. Calimero è un personaggio che è tratto dalla favola, evidentemente in versione fumettistica, del Brutto Anatroccolo, è un pulcino, non già un anatroccolo, piccolo e nero, che essendo caduto nella fuligine si sporca, diventa nero e non viene più riconosciuto dalla madre. Nei vari spot di Carosello avventure sempre tremende, ma alla fine lui, grazie al detersivo pubblicizzato Ava, torna ad essere bianco, lindo e contento. Una notorietà, quella di Calimero, che è stata molto elevata in tutti gli anni 60, già fino agli anni 70, tanto da far entrare nel lessico collettivo sia il nome del personaggio, sia alcune frasi celebri come «E che maniere, qui ce l'hanno tutti con me, perché io sono piccolo e nero, è un'ingiustizia però». In realtà Calimero appare per la prima volta in TV il 14 luglio 63, gli autori sono Nino e Tony Pagotta e Ignazio Colnaghi, e il fumettista animatore è Carlo Peroni, anche se questa sua collaborazione non è mai stata riconosciuta dagli eredi degli stessi Pagot. Parliamo di Calimero proprio per Carlo Peroni, che è un grande del fumetto italiano, con una vastità di produzione sia su carta che su video, che in chiave pubblicitaria enorme. Noi lo guardiamo in particolare perché nel 60 pubblica sul Pioniere la serie fantascientifica veristica Sand and Zeus e i fumetti umoristici di Teddy, Sprint e Gigetto, il pirata piccoletto. In particolare per la serie fantascientifica del Pioniere, genere davvero di culto per il giornale della Rinaldi di Rodari, legati a Sand and Zeus, gli eroi sono Allarme dello Spazio e l'Astronave Fantasma, proprio del 60. Ma ricapitoliamo, al di là del Pioniere, solo alcuni passaggi dell'incredibile carriera di questo disegnatore. Nasce in realtà a Senigallia nel 29, questo personaggio più noto successivamente come Perogat. Nel 48 inizia la sua vera e propria attività ad altissimo livello collaborando al giornalino con illustrazioni varie e grandi paginoni a colori. nel 1951 è a Roma, dove fa l'impaginatore e illustratore per vari periodici, tra i quali Il Vittorioso, con cui avrà una grande attività e creerà una trentina di personaggi, tra i quali Leopoldo, Giambalesta e Gervasio, che è uno dei suoi personaggi più riusciti e anche più longevi. Nel 70 collabora alla rivista Horror con vari fumetti grotteschi, nascono le strips di Zio Boris, e collabora anche a Cucciolo e Tiramolla, con una versione per ragazzi, questa volta proprio di Zio Boris. Nel 71 arriva al Corriere dei Piccoli, qui nasce Gian Coniglio, forse il più famoso dei suoi personaggi, e realizza le nuove tavole di Buonaventura su licenza proprio di Sergio Tofano. Nell'87, ancora tra le tante cose che possiamo citare, realizza interamente con i suoi collaboratori il mensile Slurp. Siamo nel 91 e qui, ancora col giornalino, nasce l'ispettore Perogat, che è proprio la sua autocaricatura. Nel 2001 proseguono le collaborazioni a vari periodici, primo tra tutti il giornalino, per il quale realizza gli antenati, quelli di Anne Barbera. Arriviamo al 2011, quando si spegne e muore Carlo Peroni Perogat a Guanzate nel Comasco, il giorno 13 dicembre 2011, all'età di 82 anni. Con la sigla dei Fliston di Anne Barbera, una delle tante collaborazioni di Carlo Peroni, andiamo a sentire proprio la voce di questo grande autore di fumetti, che ricorda qualche passaggio della sua incredibile avventura tra i comics. Mi si chiede come ho cominciato. Oh mamma mia, ci vorrebbero delle ore. Allora, facciamo tipo telegramma. Sono nato, stop. Ho cominciato a disegnare, stop. Ho cominciato a fare degli affreschi, stop. Sono passati i fumetti, stop. E da lì la mia carriera è cominciata. È cominciata a Milano, in un giornale per bambini. Ho continuato con il giornalino, che esiste tuttora. Poi ho continuato con altri giornali che tempo sono spariti, e soprattutto il famoso, mitico Corriere dei Piccoli, per il quale avevo fatto il mio personaggio di maggior successo, chiamato Gian Coniglio, che era conosciuto anche in parecchie nazioni, compreso il Giappone. Carlo Peroni e il Diabolic delle sorelle Giussani. Ho conosciuto le sorelle Giussani, che erano amiche di famiglia, venivano spesso a casa nostra e ci avevano confidato che loro stavano tentando di tirare fuori un nuovo personaggio, chiamato appunto Diabolic. E io e mia moglie gli davamo dei suggerimenti. Per esempio, il primo suggerimento è stato quello di metterci dei retini al posto dei colori, suggerimento che hanno accolto il tema. Un altro è stato quello di proporre di metterci anche dei miei disegni. Loro, vedendo nel mio studio tutta roba umoristica, quindi non riuscivano a capire come avrei potuto fare il lavoro. Beh, l'ho fatto per diversi anni. Mia moglie scriveva i testi e io facevo i disegni. Adesso non mi ricordo i numeri, però ho messo il giorno in cui ho letto una notizia di una banda che si ispirava ai colpi di Diabolic per fare dei loro colpi veri, non a fumetti. Ho detto no, basta, non voglio essere complice di queste cose qui. Fumetti, un tempo si usava a fare i fumetti a puntate. Io parlo dei fumetti dell'epoca del Vittorioso, che si parla della preistoria. E lì si facevano due pagine a settimana e poi continua con la prossima puntata. Adesso invece i ragazzi sono diventati esigenti e vogliono tutto subito, tutto presto, tutto abbondante, due tavole non gli bastano e quindi è cambiata la maniera di parlare, la maniera di raccontare a fumetti. Però ci si adegua. Non so se è vero, mi dicono che io dovrei essere stato il primo in Italia, il primo disegnatore di fumetti a fare dei siti da soli, soprattutto. Penso di essere io il primo, perché quando ancora si cominciava soltanto a sussurrare il web e internet e che pochissimo avevano internet, mi sono ammalato di internetite acuta che non mi è ancora passata. Quindi ogni cosa nuova per me è un divertimento, tutto fatto con molto divertimento. Cioè, lo scopo base è di divertirmi e far divertire gli altri. Tutti i giorni ne penso una, magari ne faccio soltanto mezza, però diciamo che alla notte, prima di andare a dormire, una pagina, minimo pagina o due, le metto. Quindi sono anni che metto una pagina o due ogni notte e la aggiorno in continuazione. Buonasera, buongiorno, buonanotte, escluso uno. Chi sarà? Mistero. In seguito alla prossima puntata. E questa era la filosofia di Carlo Pieroni, ridere, essere allegri. In ultimo è interessante osservare che in questo inizio degli anni 60, mentre Carlo Pieroni collaborava attivamente col Vittorioso, prendeva parte anche all'avventura del pioniere di Rodari della Rinaldi, a dimostrazione che al di là degli steccati, degli anatemi, delle scomuniche della stessa chiesa quarantottesca nei confronti del giornalino comunista per ragazzi, il mondo dei creativi superava questi steccati, vuoi in omaggio alla loro professione, vuoi in omaggio al fatto che il mondo del disegno in qualche modo è più universale che non certe ristrettezze ideologiche. Comunque per oggi è tutto, a risentirci la prossima trasmissione. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non...